noia questo martello. Il tuo martello è noioso? Sì, come fai a saperlo? Il capitalismo è una soluzione adatta a te! Aspetta un attimo, ma dove viene questa voce? Martello Wi-Fi con Bluetooth! Il martello Wi-Fi ha uno schermo LCD in Full HD sul quale puoi installare numerose applicazioni. Nailed it! L'app che ti dice se stai colpendo la vite. Me. Ma. Simpatia! L'app che ti permette di hackerare 1000 giochi mentre martelli. Me. Me. Me. E tante altre per sapere quale e come si potrà fare nella tua vita martellosa. Tipo a che velocità stai martellando. Google Maps per vedere se hai martellato nel mondo. La diavola mia che arde le glicemia del sangue. Ed è anche compatibile con Pokémon Go. Ha una batteria che dura 25 minuti. Molto più del tuo smartphone. E si può anche ricaricare con il cavo dell'aspirapolvere. Attenzione, funziona solo con le viti Bluetooth. E se lo comprate nei prossimi 300.000 minuti, ricevete in regalo Simpatello, l'app che ti permette di cambiare il suono alla martellata. Oh, bella a tutti. Preordinala ora! E al pozzo di listino di 399,99999 euro pagherai solo 400 euro! Chiama ora il sito Twitter dall'800-www.fax! Solo ai primi 5 minuti di commerce che chiameranno in regalo un gatto brutto! Oh!